Euroreportage. Europa, Torre di Babele. Per le lingue, rischi ed opportunità. Di Alessandra Schepisi. È una sconfitta per l'umanità quando muore una lingua, perché quando muore una lingua muore una cultura, muore una trasmissione atavica di tradizione, perché la lingua trasmette l'anima dell'uomo, e quindi quando muore una lingua muore l'anima dell'uomo, e noi come umanità dovremmo sentirci sconfitti quando muore una lingua. Pino Cacozza è nato a San Demetrio Corone, in provincia di Cosenza. È linguista, poeta, cantore della cultura degli Arbre, sceglitalo albanesi d'Italia, una comunità presente nel nostro paese dalla seconda metà del XIV secolo e che parla un albanese, per così dire, antico. Direttore artistico del Festival della Cultura Arbrisce, presidente dell'Associazione Culturale Arbitalia, nonché componente del Comitato Regionale per le Minoranze Linguistiche della Calabria. Insomma, uno che di minoranze linguistiche se ne intende. Con lui apriamo questo reportage dedicato a questo tema. Sono ben 40 milioni le persone in Europa che parlano una lingua minoritaria, tutelate dalla Costituzione, dalle leggi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ma spesso non abbastanza nei fatti. La minoranza etnica più numerosa d'Italia, pochissimi la conoscono. Invece le realtà di minoranze linguistiche di confine, che sono più piccole delle nostre, sono chiaramente minoranze di confine, quindi tutto si sa di loro, sono più, tra virgolette, protette. Le minoranze interne come la nostra, anche se c'è una legge di tutela, però non ci sono tutte quelle garanzie che possano permettere a questa nostra comunità di resistere al tempo, al logorio del tempo. E quindi quali sono le forme di tutela attuale? Ci sono leggi specifiche a favore delle minoranze linguistiche in Italia, poi anche a livello europeo queste dovrebbero essere tutelate, partire per esempio dall'insegnamento nelle scuole? La tutela attuale si evidenzia soltanto sulla carta, nel senso che esiste una legge, ma non tutto viene applicato, perché chiaramente poi non ci sono i sostentamenti economici. Per esempio, allora, lei diceva poco fa dell'insegnamento nelle scuole. Non è vero, non c'è nessun insegnamento obbligatorio nelle scuole, tutto si fa grazie a dei progetti, a volte grazie anche ai volontari che nelle scuole dei nostri paesi, delle nostre comunità, volontariamente fanno qualche corso di lingua albanese, però non sempre anche trovano l'appoggio e l'apporto della struttura scolastica, no? Perché poi chiaramente significa quando, nelle ore di pomeriggio, aggravare sull'orario, eccetera, eccetera. L'unica scuola che ha l'insegnamento, ma non è obbligatorio, della lingua albanese è lo storico liceo classico di San Demetrio Corone, perché è un liceo classico antico, storico, dove l'insegnamento della lingua albanese è già presente negli anni del regime, poi è stato prima del regime chiaramente, poi dopo, poi un periodo di sospensione, adesso il ministero ha restituito questa cattedra, e quindi è presente la cattedra di lingua e letteratura albanese al liceo classico di San Demetrio Corone, però con un insegnamento di un'ora alla settimana e non obbligatorio. Troppo poco per imparare le lingue. Ricordiamo che l'arbrisce non è l'albanese attuale, è una lingua un po' diversa, no? È l'albanese che risale alle migrazioni albanofone del 1500-1600, quindi è un albanese che si è modificato nel tempo con la nuova vita che si è realizzata al di là del mare. Quanti sono le persone che la parlano? Oltre 200.000, ma quanti sono emigrati? E quindi hanno continuato anche a trasmettere la lingua ai figli. Io ho avuto esperienza, per esempio sono stato in Canada, quanti Arbresh emigrati dall'Italia in Canada, come italiani ma Arbresh di origine, hanno parlato l'Arbrisht in casa, i figli magari non conoscono più l'italiano, ma quando vengono qua comunicano con noi usando quell'Arbrist che hanno imparato a casa. È una cosa bellissima. E quindi l'integrazione europea, questa Europa allargata, siamo a 28 paesi, 80 lingue per 700 milioni di europei, da questa Europa allargata vi sentite, come dire, in un certo senso più garantiti o c'è il rischio di venire, come dire, schiacciati da questo processo di integrazione? La comunità europea è una comunità di garanzia per le culture minoritarie in tutta Europa, dall'Europa arrivano anche finanziamenti, l'integrazione è fondamentale, poi noi siamo un esempio tangibile di integrazione pacifica in questa Europa multietnica. En attendant la liberté, on reste le poing levé, écoute la musique des hommes, libre leur message de paix. Poseemos una lengua universale, impulsata al más allá por nuestro afán de libertad. 24 le lingue ufficiali di un'Europa che dal 1 luglio con la Croazia è diventata 28, circa 80 però le lingue reali se si contano idiomi nazionali, regionali, dialetti per 700 milioni di persone. Ricchezza e opportunità o ostacolo all'integrazione? Quali sono le iniziative della Commissione europea per la tutela delle minoranze linguistiche? Ne parliamo con Laura Boselli, rappresentante in Italia dell'antenna della Direzione Generale della Traduzione della Commissione europea. Il multilinguismo è da sempre considerato un fattore di arricchimento per i cittadini europei, quindi che favorisce l'integrazione europea in senso lato. È uno stato di fatto innanzitutto perché sin dalla nascita proprio della comunità europea il multilinguismo era presente in quanto le lingue ufficiali da subito furono 4. In tempi più recenti la Commissione e l'Unione Europea hanno proprio promosso una politica attiva a favore del multilinguismo che è stata sancita anche in un certo qual modo dal famoso Consiglio di Barcellona del 2002 nel quale fu fissato un obiettivo molto concreto, ovvero l'ambizione a far sì che tutti i cittadini europei siano in grado di parlare oltre alla propria lingua madre almeno altre due lingue. Per tutelare soprattutto le minoranze linguistiche, quindi proprio le lingue minoritarie, quali sono le principali iniziative a livello europeo? Ma diciamo che l'Unione Europea non ha una competenza specifica nelle politiche linguistiche che sono e rimangono di competenza degli Stati membri, quindi può fornire azioni di supporto, di promozione, di incoraggiamento, dare delle direttive, delle linee guida, ma non essa stessa, come dire, intraprendere delle azioni concrete nell'ambito appunto delle politiche linguistiche. Può condurre degli studi, come di fatto avviene già da almeno 20 anni a questa parte, quindi degli studi per censire la situazione e lo stato delle lingue minoritarie o regionali nell'Unione Europea e partendo appunto poi da questi dati statistici favorire o finanziare o promuovere programmi che sono però gestiti da organizzazioni esterne oppure promuovere iniziative per aiutare diciamo la ricerca di finanziamenti alle organizzazioni che si impegnano per la tutela delle lingue minoritarie, però appunto è un'azione più che altro di supporto e di sostegno. Un punto di partenza fondamentale dovrebbe essere anche l'insegnamento a scuola. In Italia come siamo messi? Qual è la situazione da questo punto di vista? Sembra essere sempre rispetto agli altri paesi europei un po' il fanalino di coda per quanto riguarda il multilinguismo. Purtroppo lo siamo e purtroppo l'Italia non si colloca benissimo nel confronto con altri stati europei. Lo dimostrano i dati dello studio Eurobarometro più recente sulle lingue pubblicato nel 2012, secondo il quale purtroppo l'Italia si colloca ben al di sotto della media europea per quanto riguarda la capacità dei cittadini di conversare ad esempio in almeno un'altra lingua oltre alla propria lingua madre, infatti siamo solo al 38% e siamo diciamo al penultimo posto per quanto riguarda quindi la capacità di comunicare in una lingua diversa dalla nostra lingua, dall'italiano. Per promuovere il multilinguismo a partire dai giovani c'è un'importante iniziativa che parte lunedì. Sì, è un concorso promosso dalla Direzione Generale della Traduzione della Commissione Europea, il concorso Juvenes Translatores, che arriva alla 7ª edizione quest'anno e è un concorso per studenti delle scuole superiori che compiono quest'anno 17 anni, quindi nati nel 96, che si dovranno cimentare con una traduzione, quindi è un modo per promuovere lo studio delle lingue e anche per avvicinare i ragazzi magari al mondo della traduzione, stimolare anche un po' così lo spirito competitivo perché si compete con classi di tutti gli altri stati membri, quindi ci si può iscrivere, le classi possono iscriversi dal 2 settembre fino al 20 ottobre. Su Facebook, su Twitter, su tutti i social media è possibile trovare informazioni digitando Translatores. We live on a continent of linguistic and cultural differences. A continent of regions and diversity. E intanto il 21 giugno è partita un'importante iniziativa, si chiama Minority Safe Pack Initiative, una grande campagna per la tutela delle diversità e delle minoranze non solo linguistiche. Si tratta in realtà di un'iniziativa dal basso che parte proprio dai cittadini, una raccolta di firme con l'obiettivo di arrivare ad 1 milione in modo tale da poter presentare una proposta ufficiale alla Commissione per chiedere di legiferare sul tema. You are not alone. 1 million signatures for diversity in Europe. The Minority Safe Pack Initiative. Euro Reportage in collaboraZione con Euronet Plus.